Eccoci live con l'ultimissima puntata di Radio Virus. Ah, scusate. Non so, c'è qualche effetto. Già un errore subito. Infatti partiamo, cioè finiamo come siamo partiti. Con gli errori. Con gli errori. Ora live invece l'ultimissima, aspetta, rifaccio. Live con l'ultimissima puntata di notizie virali su Radio Virus, Fred and Virgi. E vai. Grande, grande Bea qua con noi. Oggi niente, sarà una puntata molto festosa, molto. Aspetta, molto... Un po' la musica intanto. Abbassala tu, Virgil. Mettiamo in pausa. Ok, mettiamo in pausa, ma tanto comunque con l'auto mentre parliamo non ci dovrebbe dar fastidio questa cosa. Comunque oggi dicevo puntata molto festosa, ultima puntata, facciamo un po' un riassunto di quello che abbiamo visto durante le scorse 15 puntate e ci saluteremo prima, insomma, di chi poi andrà a fare pausa, chi no, e in previsione di quello che sarà un autunno molto infuocato, stando anche a quanto detto la Morgese l'altro ieri all'Agora sulle 3. Poi vabbè, approfondiamo tutto. Virgi, saluta anche te, mandiamo un po' di canzoni e sì, andiamo molto oggi rapido. Facciamo festa. È di festa. Siamo Radio Virus, siamo caldi, siamo 32 gradi Milano, Siamo qua insieme a Federico Fumagalli, detto Fred. Ciao! E siamo qua anche insieme a Beatrice Valoti, che è venuta a detta trovarci, Bea. Detta Bea. Ciao a tutti! Che è direttamente da Berlino, direttamente a lavorare. È venuta qua per sentire un po' di clima lavorativo di Milano. A lavorare, non lo sento tra l'altro, e stiamo per bere dell'estate, stiamo per mangiare anche una coppa del nonno che è comunque lo sponsor ufficiale di Notizie Virali, ci ha accompagnato per alcune delle ultime puntate, quelle diciamo più estive. Oggi è Oggi è puntata relax, una oggi è puntata puntata relax. relax in cui vogliamo ricapitolare tutti i nostri meravigliosi ospiti che ci hanno accompagnato sin dalla prima puntata che abbiamo fatto, che era ancora in lockdown. Scusa, mentre parli ti metto sotto un Mentre sottofondo. parlo c'è un sottofondo che Sì, giusto, mentre parli, bello così. è un pezzo di Elvis 99, sì, che con Gaika, pezzo estivo che accompagnerà la nostra estate 2020, in cui faremo niente, probabilmente saremo poveri. Ripenseremo a quello che insomma abbiamo detto anche negli scorsi mesi, e cercheremo di far montare questa rabbia, e durante quest'estate magari elaborarla e farla diventare qualcosa di più concreto, come ci siamo detti le ultime puntate, per questo autunno. Quindi consigliamo a tutte voi amiche e amici che non sapete cosa ascoltare, di andare sull'archivio di Radio Virus e ascoltare tutte le puntate passate, che sono 15, 16, Questa quante qua è la sono? sedicesima, Questa è la quindici. 16ª, potete riascoltare anche questa se vorrete, è piena di contenuti, ma ricordiamo, Lo ricordiamo dopo questo dopo pezzo. questo pezzo ricorderemo tutti i nostri fantastici ospiti. It's from the clouds and the sunlight, and I don't really mind. Girl, just come ride. Girl, do. Posting up in the corner now. Shots in the Remy, that's up in my car. We should be in the middle of the dance floor, baby. I've been grinding, let the groove catch me. Oh yeah, I don't watch no face, no. Let the beat take control, baby. And let me feel your energy, baby. I've been on a wave like you ain't seen before. I've been on a wave like you ain't seen before, yeah. Hey, hey, ooh, yeah. You was once for me, and I was once for you. But now it's nuts, we ain't even talking. And you've been acting so strange lately, girl. Go on, like, say, I done put my time and invest in you, babe. It's mad how I think you're the best thing to me. But I ain't gonna worry, cause the season's in me. Up to us, so you can't run from your crimes. You, why you carry that cross if the door's locked? you're at the wrong yard. Champagne pops out of plastic cups. Dropped off the highest cloud. Front page with your stars. Ricordando la prima puntata in assoluto di Notizie Virali, in cui Maristella Bonsante, psicologa, psichiatra, eccetera, eccetera, mamma della nostra amica Marina Pierri, ci dava dei consigli su come non soccombere psicologicamente al Covid, forse sarà il caso che nella prossima stagione di Notizie Virali la richiamiamo per farci dare altri consigli su come sopravvivere al contraccolpo post-Covid della crisi economica che è stata preannunciata dalla ministra Lamorgese. Esatto, no, volevo solo precisare quello che ho detto in apertura, ovvero che mentre ci sono 32 gradi adesso, che siamo al, non so neanche che giorno 10. Sia di luglio, al 10 luglio, 15 e 15 tra l'altro del 10 luglio, non dicevo perché per i superstiziosi, insomma, queste cose. Ad autunno parrebbe ad che autunno. In autunno, oggi è puntata divertente, stiamo qua che stiamo bevendo, diciamo, gag su bronzando gag. Con dell'acqua plose che io non ho mai sentito frizzante. Beh, è un'ottima acqua, credino. Fresca. Sì, no, non è mica detto che fa schifo. Viene da Bolzano. Comunque, per dare ancora un po' di parvenza prima di lasciarci andare, sto già prendendo il filo. Comunque, volevo precisare, perché la Lamorgese ha detto che questo autunno farà ancora più caldo, ma non si tratta del caldo meteorologico, bensì del caldo delle tensioni sociali, perché secondo lei ci saranno, sentiremo, ma anche grazie alla vagina, anche perché se noi siamo politicamente corretti, sentiremo il calore delle tensioni sociali, secondo lei. E quindi sarà il caso di ripassare tutto quello che ci siamo detti con tutti i nostri ospiti durante questi mesi, in cui abbiamo molto ragionato su cosa imparare dal nostro scontento politico e come metterlo a sistema per ragionare tutti insieme per un'azione condivisa, cosa che tra l'altro lo scorso weekend con gli Stati Popolari a Boubacar a Roma, certo, è iniziato a succedere in maniera qualcosa si sta buttando, diciamo che sul tavolo, insomma, del dibattito pubblico qualcosa si sta iniziando a buttare, un po' di contenuti sono già emersi, insomma, durante questi mesi di tantissima produzione teorica e anche pratica di quelle che potrebbero essere alternative anche per affrontare questa crisi, come adesso l'esempio delle brigate, perché abbiamo nominato tante volte, anche noi abbiamo dato il nostro contributo, quindi, ma tantissime altre spinte dal basso che hanno concretamente materializzato delle alternative, così come tantissima produzione teorica. Speriamo, Aboubakar con gli Stati Popolari hanno buttato sul terreno di gioco anche Catina Torre, si è candidata a sindaco di Bologna. La Schlein ha detto cose interessanti ultimamente, insomma ce n'è nel panorama politico. Sembra che nascano anche delle nuove voci che arrivano da territori che comunque stanno un po' più in ascolto rispetto a realtà finora sommerse. Esatto. Quindi probabilmente l'autunno caldo sarà una buona occasione per spingere ancora di più in una direzione, non dico rivoluzionaria, però di ribaltamenti e di... Possiamo anche dirlo senza paura, secondo me rivoluzionaria. Diciamo, io personalmente poi sono contro la violenza, quantomeno per offendere, ma quando bisogna usarla per difendersi, assolutamente ben venga. E poi io parlo dalla mia posizione di privilegiato, ma chi insomma in questi mesi e anche nei prossimi sarà costretto alla fame, io non ci vedo nulla di male che scenda in piazza e spacca tutto, se è così, perché se fossi io al stesso posto farei la stessa cosa probabilmente, quindi insomma... Per rinfrescarci, adesso manderemo una traccia molto fresca, un remix. Virginia, introduce te a questo remix, perché lo conosci meglio. Beh, questo è un remix che ha fatto che Moro, che è un producer e musicista sudamericano che è venuto ospite a una sauna l'anno scorso, due anni fa, non mi ricordo, aveva fatto appositamente per noi. È il remix di un pezzo abbastanza famoso di Eros Ramazzotti, che in realtà è una zarrata, ma io l'ho amato e quindi lo dedico a tutte voi e tutti voi innamorati o che si vogliono innamorare o che sono innamorati della vita. Bello, bello. Questa cosa è una frase che avrei detto io. Un'altra te remix. Ci vediamo tra poco. Bentornati alla puntata più inutile di notizie virali della storia, in cui diciamo cose a caso e cerchiamo di parlare di cose che succederanno quest'estate. Le ho schiacciato un piede e vorrei riprendere il tema del feticismo che ho tirato fuori prima, ma non ora. Non è caso. Non è il caso, perché nonostante sia la puntata più inutile, è comunque l'ultima puntata in cui insomma abbiamo fatto il nostro percorso e quindi adesso stiamo anche un po' festeggiando, ci sta lasciando anche un po' andare. Quindi. Abbiamo parlato di meteorologia, parliamo di ecologia e in particolare siamo sulla pagina di Ecologia Politica Milano, che ha un bellissimo logo con un pinguino e una palma, molto carino. E stiamo per raccontarvi di questo campeggio organizzato dai NOTAV. Si chiama Estate di lotta NOTAV, parlacene Fred, raccontacelo che lo sai. Sì, no, brevemente stavo dicendo che siccome sarà un'estate calda e si preannuncia un autunno, ricordiamo ancora la Morgese, insomma, che ha detto si preannuncia un autunno ancora più caldo, i nostri amici di Ecologia Politica Milano organizzano, credo anche poi a livello nazionale, se non vorrei sbagliare, scusatemi amici, se ci state ascoltando mandatemi un WhatsApp per correggermi, un campeggio in Val di Susa con tutta il comitato NOTAV, quindi se uno vuole rinfrescarsi da questo caldo ma prepararsi contemporaneamente al caldo che verrà, che non è climatico, o almeno insomma poi col climate change eccetera eccetera, non, probabilmente anche d'autunno avremo queste stesse temperature, però diciamo un caldo più di lotta, insomma, di tensione sociale, sempre per riprendere le parole della Lamorgese, e per tutto luglio praticamente da 17 in poi ci saranno vari campeggi e iniziative organizzate da NOTAV, da Ecologia Politica e altri collettivi, quindi se volete rinfrescarvi l'appuntamento per chi vuole e può è in Val di Susa quest'estate. Trovate tutte le informazioni sulla pagina Ecologia Politica. E io volevo anche fare sollevare un altro punto, cioè parlare di una iniziativa organizzata dal laboratorio transfemminista queer di Macao, che mi è piaciuta particolarmente quest'anno, che è stata Marciona. Assolutamente. È stata un'iniziativa molto importante, soprattutto pensando al fatto che negli ultimi anni il Pride di Milano è stato sempre più capitalizzato da strategie di marketing, di rainbow washing, di vari marchi, brandizzato da qualsiasi cosa. E ricordo chi c'era al Pride dell'anno scorso, la sensazione che io ho provato sulla mia pelle di sentirmi un po' deflorata dalla presenza di così tanti brand. Immagino che sia anche una direzione che questa città in generale sta prendendo, e quindi ok essere una città aperta e progressista da questo punto di vista, ma quest'anno causa Covid il Pride ufficiale non si è potuto tenere, e invece le iniziative parallele che sono successe, c'è stata una splendida biciclettata. Bellissima. Organizzata da le nostre amiche Anna Magni e Lim, che si chiama Buddy Queer Bike, a cui abbiamo partecipato con tanta gioia, e subito dopo nel weekend c'è stato un Pride nostro, diciamo, in cui ci siamo riappropriati di punti della città e si è parlato di argomenti che sono degli argomenti di lotta LGBTQ importanti, e questa marcia si è chiamata Marciona. Dobbiamo ringraziare tantissimo le amiche e gli amici del laboratorio queer transfemminista di Macao, anche di Piano Terra, e anche di Piano Terra, da cui è partita proprio effettivamente questa biciclettata. E questo weekend c'è un Pride simile a Torino, e quindi in bocca al lupo anche a loro, cioè. Invitiamo chiunque desideri celebrare la propria queerness anche questo weekend a recarsi in maniera più colorata e rumorosa possibile a Torino. E adesso ci ascoltiamo un bellissimo pezzo di Sottotono, il più grande duo R&B italiano dopo me e Virginia. Ti sentiamo. A tra poco. Arrivare, non mi ha mai visto prima, ma ora al mondo ci siamo solo io e lei. Baby, baby. La conosco da un minuto, l'ho appena trovata e già. già l'ho perduta, resta una sconosciuta, un mistero e chissà se è vero. Quel che i suoi occhi mi stanno dicendo di lei, io lo spero e stavolta è per davvero. È tutto questo perché se poi io so, può lasciarsi andare l'accompagnerò, e domani ti giuro che me ne andrò. Può lasciarsi andare l'accompagnerò, e poi ti giuro che sparirò. Darle il mondo, potrei darle tutto ciò che cerca, ciò di cui ha bisogno. Quindi molla il tipo che con te mi perderai. Potresti non rivedermi mai più, non si sa mai. Non so cosa sta rischiando, pensa che stia scherzando, ma sono io ciò che sta cercando. No, di sicuro l'uomo che è con lei, perché questa serata spero l'abbia solo accompagnata. Mi servono due minuti, ma ti assicuro che verrà. E questa notte durerà un'eternità, e il mondo gira solo perché ora c'è lei. Solo per il suo sguardo che mi fa prendere il volo. La conosco appena e già vivo per ogni suo respiro. Ti giuro non ti prendo in giro, e mentre la miro mi accorgo quanto sia stupenda, e hai sbagliato se pensi che mi arrenda. Solo lei ha quel che voglio, solo lei ha quel che voglio, solo lei ha quel che voglio, e sono io ciò che sta cercando. Solo lei ha quel che voglio, solo lei ha quel che voglio, solo lei ha quel che voglio, e sono io ciò che sta cercando. Solo lei ha quel che voglio, solo lei ha quel che voglio, solo lei ha quel che voglio, e sono io ciò che sta cercando. Solo lei ha quel che voglio, solo lei ha quel che voglio, mi ha spinto e solo ora capisco perché. Come un druido ho il fluido che fa per lei. Non conta quanto sia durato, ma che sia stato qualcosa per cui vale la pena d'aver vissuto. E quindi lascio che la storia abbia il suo corso naturale, ma ti prego fammi capire perché sto male. Perché so che domani io mi sveglierò e sarò ancora del suo profumo intriso, dal suo sorriso ucciso. Sarò con la mia donna e lei col suo uomo, visto che ho scoperto che l'unica lei è la sola. Visto che ho scoperto che l'unica lei è la sola, sola, solo lei ha quel che voglio, solo lei ha quel che voglio, solo lei ha quel che voglio, e sono io ciò che sta cercando. Solo lei ha quel che voglio, solo lei ha quel che voglio, solo lei ha quel che voglio, e sono io ciò che sta cercando. No, ci sono stati questi due minuti, cioè due secondi un attimo di silenzio, intanto che Virginia fa una ceretta, io prendo possesso della radio, so, è un'informazione che si poteva dare, no? Per privacy, sì. No, ma no, ceretta legata, tanto non è che, insomma. Vabbè, comunque, detto questo, torniamo un po' alle origini di Notizie Virali, quando davamo anche delle notizie, appunto, virali o comunque, in realtà, non virali, ma che... perché media mainstream, come ben sapete, non sempre danno delle notizie così, insomma, non politicamente ok, secondo loro. Quindi le diamo noi per dare dell'informazione anche complementare a quella che potete leggere su tutti i quotidiani. Restiamo su Milano. Stamattina la polizia e il comune, la questura di Milano hanno avuto una bellissima idea, insomma, per iniziare la loro calda estate, e hanno iniziato a sgomberare delle case in zona Piazzale Cuoco, e noi riteniamo, insomma, ci accodiamo anche a chi sostiene che sgomberare in questo periodo, in questo momento storico, chi insomma occupa probabilmente perché non ha possibilità di fare altro, sia quantomeno un'operazione, se non cioè, sicuramente discutibile, e anche insomma un po' da stronzi. Esatto, per dirla chiaro e tondo. Quindi ci accodiamo in maniera solidale a chi è stato sgomberato. Adesso non sappiamo come sono gli aggiornamenti, ve ne daremo da qui a fine puntata nel caso riuscissimo a recuperarli. Altra cosa che ha fatto il comune, poi dicendo che non era prettamente colpa sua, ma insomma poi il mandante è sempre quello, il buon Beppe Sala, il sindaco. Adesso vediamo se c'ho al volissimo la voce di Beppe Sala che ci ricorda che dobbiamo lavorare. Eccoci qua, prontissimi. Milano ha bisogno di tornare a lavorare. A lavorare. Grazie Sala che ci ricorda sempre. Lavorare, a lavorare, a lavorare. Eccoci. E, due giorni fa, cos'è successo? Hanno usato la logica dei bulldozer per riprendere il comunicato di Baia Monti Verde Comune per distruggere tutto ciò che il comitato aveva creato nello spazio verde. Per chi è della città lo sa benissimo, comunque vicino a zona Paolo Sarpi, dove c'è anche la Brigata Franca Rame, davanti alla Fondazione Feltrinelli c'era un'area verde che è stata diciamo restituita al pubblico, quindi ad uso comune da parte di un comitato di cittadini che con altre associazioni e anche singoli hanno rianimato l'area facendone uno spazio per bambini, genitori o chiunque volesse andare lì, divertirsi o passare anche solo una serata in compagnia, come io ho fatto insomma con altri amici non meno di 2 settimane fa. Hanno ben deciso di distruggere tutto quello che era stato creato da artisti di strada e dal comitato, imbrattare lo schermo in cui venivano fatte videoproiezioni, recintare l'area nel nome insomma della politica green di Beppe Sala, che alla fine come ben sappiamo green non è, dato che appunto li vogliono costruire e cementificare ancora. A meno che tu non intendi il green del dollaro. Il green del cash, esatto, ma qua non abbiamo i dollari, abbiamo degli euro verdi. Quindi 100 euro. I 100 euro, sì, allora possiamo dirlo anche noi, il green degli euro. Comunque anche qua ci accodiamo in solidarietà al comitato Baia Monti Verde Comune. E andiamo a ascoltarci adesso un pezzo randomissimo che non so neanche cosa sia. Sarei a fit sì, allora grazie Virgi, presenta tu. Questo è un pezzo di Linda Quebrada, artista brasiliana che doveva venire a suonare al Terraforma, ma poi è successo quello che è successo, e ci auguriamo di poter sentire questo concerto. Sì, ci auguriamo anche di riuscire l'anno a metterlo. Prossimo, ci auguriamo che Fred riesca a mettere questo pezzo. Non riesco a metterlo, Virgil, ma no. Con un altro. Non riesco a metterlo ora. Non capisco. L'avremmo ascoltato. Aspetta. Forse riusciamo al volo. L'avremmo ascoltato, ma c'è un problema tecnico. Incredibilmente, tornando sempre per tornare agli albori, ma anche non troppo agli albori. Quindi rimanderemo tutte cime, Virgi. È un pezzo che c'ho. È un pezzo che abbiamo amato, di Yank, socio di Tommy Cuti. Pezzo prodotto tra l'altro da Tommy Cuti, che è stato uno dei nostri fantastici ospiti. Tutte cime. Frate, inutile che pensi male, preso da una crisi lessicale, da quanti fogli sto a cestinare, Marco c'ho un numero da stimare. Temi che tra a lavorare mi ti scavi la fossa, il nome lo segni fra, dico per forza, Yankee ti carica più della cossa. Sto disconnesso da un pezzo, però vi spacco lo stesso. A lavorare, se ne esci depresso, un po' come a lavorare processo. Mischio la Sprite con lo sciroppo, giuro fratello tu parli troppo, senti sta merda poi dimmi, son fresco folata dal cielo vento scirocco. Non sanno manco parlare dal vivo, sti babi vengono in raduno, vieni qua collo con 10 coglioni, non ne fate nemmeno uno. Merda, senti questa merda, ti innamori tipo Molly, fumo troppa erba, cannoniere tipo Holly. Con i miei negri, ti giuro siamo i più folli. Ti giuro siamo i più folli. Ti giuro siamo i più folli. Ho la bocca impastata e non mi escono più le rime. Se mi guardi intorno vedo erba, non finire. Fra mi sembrano tutte delle cime. Tutta questa ganja cazzo manca le cartine. Ho la bocca impastata e non mi escono più le rime. Se mi guardi intorno vedo erba non finire. Fra mi sembrano tutte delle cime. Tutta questa ganja cazzo manca le cartine. Porta rispetto fra chiamami tonto. Ti faccio viaggiare fra tom tom. Giovane forte alla tam tam. Tu pallone gonfiato pom pom. I miei frati dicono Bulma fonto. Cercando loro torna conto. Come finisce non te lo racconto. Dico solo che non usano il condo. Bro non fare troppo il bianco. Stai davanti un blacca. Fumi e non ti muovi più figura di murcaca. Per tutti i razzisti questo negro non si placa. Verde gancia mica lega merde. Quindi shada fuck up. Entro nel gioco poi tiri tiri. Oppure nel corpo fra ghiri ghiri. Vedo solo mega cime dovunque mi giro. Ti giuro son chili chili. Con i miei frateniamo un'espressione alla neri neri. Willy willy. Alberi arancino baobab. Oran bad. Willy willy. Senti questa merda ti innamori tipo Molly. Fumo troppa erba cannoniere tipo Olly. Io con i miei negri ti giuro siamo i più folli. Ti giuro siamo i più folli. Ti giuro siamo i più folli. Ho la bocca impastata e non mi esco più le rime. Se mi guardi intorno vedo erba non finire. Fra mi sembrano tutte delle cime. Tutta questa ganja cazzo manca le cartine. Ho la bocca impastata e non mi esco più le rime. Se mi guardi intorno vedo erba non finire. Fra mi sembrano tutte delle cime. Tutta questa ganja cazzo manca le cartine. E rieccoci nel penultimo spezzone della, dell'ultima puntata di Notizie Virali. Per chi si fosse connesso solo adesso, io sono Fred. Io sono Virgi e c'è con noi qua la nostra amica Bea, che da qui ci facciamo raccontare come si sta in questo momento a Berlino, come si è vissuto il lockdown. Ricordiamo che Bea fa parte di un duo epico di DJ, nome epico Pupa e Scintilla, che fanno delle grandissime feste a Bergamo e speriamo in futuro di poter collaborare con un altro duo epico di DJ di Milano, che non siamo io e Fred, no, ma esatto. Che si chiama Già Scavalle. Mi piacerebbe fare una grossa collabo con loro, perché sarebbe una serata incredibile. Magari dopo ci facciamo consigliare anche un pezzo da Bea adesso, sì, dopo con, che ha finito di parlare. Con zero problemi tecnici. Quindi Bea, raccontaci un attimo come stai, come si sta. Tra l'altro tu sei di Bergamo, quindi situazione Berlino-Bergamo, com'è stato ritornare? Ciao a tutti, grazie di avermi presentato così, a bellissimo, caso. A caso, bellissimo. Feste assolutamente le faremo, assicurate. Grande. Allora, la situazione in realtà è stato molto molto strano essere a Berlino e avere tutte le notizie ovviamente riportate da Bergamo. Io tra l'altro vengo proprio da Nembro, che è il paese che è stato più colpito in tutto il mondo praticamente dal corona, e è stato abbastanza terribile il fatto che le persone attorno a me a Berlino non capissero la gravità dei fatti. Mm-hmm. E ovviamente io e altri italiani che appunto sono con me a Berlino avevamo la percezione che il virus e tutto non fosse capito assolutamente in altri stati. E infatti, cioè, così in realtà è stato, sono stati fortunati le persone tutti a Berlino, perché sono stati molto meno colpiti. Il sistema sanitario è differente, quindi avevano, diciamo, le spalle più coperte. E non so, la percezione è stata veramente strana, perché si usciva, la gente si vedeva, si faceva le feste nei parchi, quindi diciamo noi italiani a Berlino eravamo un po' nel mezzo tra ok, capire come la situazione era lì e quindi fare le cose quasi normalmente e cercare di diffondere le notizie facendo capire a tutti in realtà di cosa si trattava. Diciamo ora meglio, qua a Milano sono tornata. E Bergamo? Bergamo molto male, nel senso, penso lo sappiate tutti, Nembro, sì. Tutti i miei amici e familiari sono stati rinchiusi in casa per mesi, e già da prima del lockdown definitivo, e diciamo le persone sono abbastanza emotivamente tuttora colpite. Scusi, faccio una domanda. Hai un pezzo che vorresti ascoltare? Che lo cerco e, okay. E poi lo mettiamo bene, dopo. Va bene, lo cerchiamo. Ci Perfetto. Penso anch'io. Io ti faccio un'altra domanda. Nel frattempo tu ci raccontavi che la tua mamma è insegnante. E che racconti ti ha fatto di questo periodo di insegnamento anche a distanza? Okay. Di situazioni... Allora sì, è stato tutto molto strano perché mia madre è anche assessore del comune, quindi diciamo le sue giornate erano costellate di consigli comunali di 4 ore, ricerca di volontari, cose del genere, e con la scuola si è trovato molto in difficoltà perché in realtà ovviamente alcuni bambini sono predisposti ad ascoltare anche online e alle spalle hanno delle famiglie che gli permettono che questo. Aiutano, certo. Ci sono tantissime famiglie che purtroppo non hanno avuto il tempo, lo spazio e dovevano magari lavorare. Sappiamo, ci sono tutte situazioni diverse, quindi sì, molto molto difficile. In realtà non vedono tutti l'ora di tornare a vedersi a scuola. Certo. Si mandano video, ho visto video di suoi alunni carini che salutano. Cioè c'è molto affetto, questa è una cosa positiva. Molto positiva. E, sì, diciamo esatto che i bergamaschi, pur essendo freddi, in questa situazione si sono uniti e hanno espresso un po' di sentimento. Va bene, grazie mille Bea. Adesso prima di partire insomma con l'ultimo spezzone in cui faremo i ringraziamenti, ricorderemo tutti i nostri ospiti avuti durante questi 2 mesi, perché vedevo prima Virgi che la nostra prima puntata è stata a fine marzo 27, insomma intorno a quella data, perché la cartella nella mia cartella di notizie virali l'ho creata il 27 marzo, quindi sto andando a rivedere quel venerdì che giorno era. Probabilmente il 28 è stata la nostra prima puntata di marzo, e quindi sono passati 3 mesi di più, marzo, aprile, maggio, aprile, maggio, giugno, 3 mesi e mezzo quasi di puntate, sì. E siamo molto orgogliosi, a tra poco. Ci siamo tornati. Io sono tornata da una dura sessione di ceretta che tra l'altro dovevo fare, l'ho fatta da sola a caso, questo senza nulla togliere al fatto che se chi vuole tenersi i peli, si tenga i peli, chi li vuole togliere, se li tolga. Chi vuole farlo da una cerettaia, come si chiama, un cerettaio, lo faccia lì. I famosi cerettai. Io non mi depilo, insomma. Ma dai, sì. Non l'avrei mai detto. So, è però già un miracolo che riusciamo a tagliare i capelli. comunque sia, questo per dire che cosa abbiamo imparato? Un termine che ci ha accompagnato durante tutta questa fantastica e varia stagione di notizie virali è stato il termine cura, e questo è un invito a chiunque, insomma, cosa abbiamo imparato da questi mesi bui per tutti e mesi in cui ognuno è stato bene o male più a contatto con se stesso, con il proprio tempo, con lo spazio che occupa nel mondo, indipendentemente da tutta una serie di sovrastrutture lavorative, di relazioni basate su lavori, eccetera, eccetera, è che è necessario prendersi cura di se stessi, e quindi quest'estate chiunque voi siate, ovunque voi andiate e qualunque sia la vostra condizione economica, psicofisica, eccetera, vi auguriamo vi invitiamo a prendervi cura di voi stesse nei modi che preferite, insomma, quindi mangiare delle verdure, ad esempio, prendervi cura del vostro corpo, che è molto importante. Staccarvi anche dai device tecnologici, cioè proprio metterli in una cesta a inizio giornata e riprendere la fine giornata. E fare tanti complimenti e elargire tanto affetto alle persone che stanno intorno a voi, perché questo è un tema che è molto, molto caro a me e Fred. Il primo passo della futura rivoluzione politica, la nostra utopia, nell'idea che abbiamo di mondo del futuro, parte proprio da noi e dal modo in cui ci relazioniamo agli altri e dal modo in cui ci rivolgiamo alle persone che abbiamo intorno in qualsiasi comunità di cui facciamo parte. E quindi questo è un discorso che io ho più volte affrontato con la mia psiche, che saluto, dottoressa Riva, che è stata un'altra persona molto importante di questo periodo per me, e cioè di impostare o reimpostare tutte le nostre relazioni su base molto affettiva e di cura, di prendersi cura le une delle altre, gli uni degli altri, e vi consiglio, insomma, di complimentarvi molto con le vostre amiche e i vostri amici, perché questa è una cosa che sembra una cazzata, ma piano piano si butta nel mondo un seme di amore, che è una cosa che c'è troppo poco in giro e di cui abbiamo bisogno. Quindi amate voi stesse e voi stessi, e amate di più proprio con le parole e con dei gesti anche semplici le persone che avete intorno. A tale proposito, una canzone d'amore che forse dovremmo avere, che la nostra DJ del giorno, Bea Valoti di Pupa e Scintilla, festa che incendia le notti di Bergamo, ci ha consigliato, che è un must della loro festa, Amore Disperato di Nada. Sembra un angelo caduto dal cielo, come vestita quando entra il sassofono blu, ma si annoia appoggiata a uno specchio, tra fanatici in pelle che la scrutano senza poesie. Sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo. Sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo, sto perdendo tempo. Una sera incontrò un ragazzo gentile, lui quella sera era un lampo e guardarlo era quasi uno shock. E tornando, e tornando, e tornando, e tornando. E tornando, e tornando, e tornando, e tornando a casa. Lei ballerà tra le stelle accese. Scoprirà, scoprirà. dopo quella volta lei lo perse di vista. Disperata lo aspetta ogni sera al sassofono blu. Una notte da lupi lei stava piangendo. Quella notte il telefono strillò come un gallo. Sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando. Sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando, sta chiamando lui. Sembra un angelo caduto dal cielo. Quando si incontrano toccarsi è proprio uno show. E tremando, e tremando, e tremando, e tremando. E tremando, e tremando, e tremando, e tremando forte. Eccoci, ultimi 5 minuti della prima stagione di Notizie Virali, quindi niente, ultimo intervento probabilmente dopo le parole bellissime di Virginia di poco fa, prima di questa canzone. Ci teniamo a salutare tutti e tutte, adesso farò l'elenco, spero di non dimenticare nessuno, anche perché ce l'ho scritto davanti, di chi è stato ospite con noi negli ultimi 2 mesi, poi passerò anche a Virginia per i saluti generali, insomma, che ci ha aiutato a mettere su anche la radio. E primissima puntata, tutte queste puntate ricordo subito che le trovate nella sezione archivio di www.radiovirus.org. Non proprio tutte, perché alcune non sono state registrate. Però insomma, meno male, poi se ci scrivete, esatto. Primissima puntata, Sceriffi e Runners con Lucia Capuzzi dell'Avvenire e Maristella Bonsante, che abbiamo citato anche prima, psichiatra, professoressa, mamma insomma di Marina Pierri. Notizie Virali 2, classe A e classe Z con Leonardo Bianchi di Vice e Cecilia Sala di Rai 3 e il maestro Luca Passeri, insomma, che ci ha aiutato. Luca Passeri, grandissimo attore che ha letto per noi un copione inventato che era stato scritto per questo film di Muccino sul Covid che non vediamo l'ora di vedere. Notizie Virali 3, Ribellu con Carlotta e Davide di Extinction Rebellion Milano e Sebastiano di Fridays for Future Italia. Salutiamo gli amici di Extinction Rebellion. Assolutamente, di Fridays for Future, di tutti i movimenti, prima abbiamo citato ecologia politica, insomma, comunque tutti i movimenti ambientalisti, ecologici. Li invitiamo a seguire anche le loro azioni, che sono sempre molto, molto, molto sensate, interessanti, azioni di disobbedienza civile che sono significative. Anche a livello comunicativo molto interessanti, insomma, perché performativamente parlando sono molto belle e vi invitiamo ad andare sempre in piazza con gli amici e le amiche di Fridays for Future, che sono a mio avviso, insomma, le persone che più nell'ultimo anno hanno cambiato il modo di riempire le piazze, più che altro perché hanno tenuto una continuità che difficilmente si vedeva così, diciamo, da qualche anno in Italia. Notizie Virali 4, media e bias cognitivi con Andrea Colamedici di Tlon e Silvia Boccardi, nostra molto amica, che salutiamo, che ha appena compiuto gli anni, quindi ne approfittiamo per augurarle il ritardo buon compleanno. Grande. Notizie Virali 5, sorveglianza digitale con Antonella Napolitano di Privacy International e Fib Di Salvo, altro nostro amico che mi pare di recente abbia pubblicato forse un libro o qualcosa di simile. Comunque seguiteli tutte le persone che stanno nominando, seguitele sulle loro pagine social, cercatele perché sono tutte persone interessanti, non perché le abbiamo invitate noi, ma perché effettivamente si sono dimostrate avere contenuti comunque sia di un livello di profondità e di diciamo accuratezza e professionalità anche elevato, quindi insomma vi invitiamo a seguirli. Notizie virali 6, non lavoro con Marie Moïse di Remake, che salutiamo tantissimo, che adesso tra l'altro Remake, scusatemi, mi fermo velocissimamente, così come Torchiera e altri spazi, insomma, sono sotto sgombero, non sotto sgombero, nel senso che si sta sgomberando, ma è stata notificata l'intenzione di sgombero da parte del commissarissimo, insomma, Sala, comunque che poi sia Sala la questura, bla bla, insomma, sempre gli stessi. Vi invitiamo quindi a supportare queste realtà, perché servono presidi, sono importanti presidi civici di speranza e di futuri o scenari alternativi, insomma, quindi difendiamoli. E Riccardo Germani a Camera nel Lavoro, anche loro, Brigata Fancarame, vicini poi allo spazio di Baiamonti Verde Comune che abbiamo nominato prima, supportato anche loro, che aiutano, insomma, a livello sindacale anche tutti i lavoratori e le lavoratrici che in questi mesi hanno perso anche i propri posti di lavoro e, tanti propri diritti. Notizie virali 7, Famiglia e Comunità del Futuro, con Annalisa Camilli di Internazionale, Mariana Dovidio e il contributo di Laura Tonini, insomma, che ricordiamo ha scritto un bellissimo articolo, non mi ricordo adesso che... Su Studio, grazie, che vi invitiamo a ricercare. Notizie virali 8, Chi fermerà la musica, che è stata una delle prime puntate in cui abbiamo trattato la parte, diciamo, più artistica e culturale con Emanuela Teodora Russo, Enrico Gabrielli, che ha fatto un intervento, insomma, molto concitato. Notizie virali, sì, devo tornare su, notizie virali 9. Hai dimenticato l'8 forse. Scusami, no, l'8 era... L'ho detto? Beh, grazie del correttore. Notizie virali 9, Impara dall'arte, con Tommaso Guariento, ricercatore dipendente, insomma, anche della scuola open source di Bari, Giulia e Dario di Artworkers Italia, seguite anche il loro lavoro perché stanno facendo, ne vedremo delle belle, stanno facendo delle cose molto interessanti. Notizie virali 10, dove abbiamo parlato di scuola con Maddalena Farnito del Comitato Priorità alla Scuola e Franco Lorenzoni, anche lui maestro incredibile, ormai in pensione, però insomma vi invitiamo a leggere cosa ha fatto e cosa ancora sta facendo questo centro sperimentale vicino a Palermo. Notizie virali 12, se adesso non sbaglio, Bea, tieni conto per favore. Perché? No Justice No Peace, dove abbiamo trattato tutto il tema legato a Black Lives Matter, George Floyd e tutte le proteste che ne sono seguite, insieme a Tommy Cuti, Selam e la nostra amica Sara, direttamente con un audio da New York. Vi invitiamo anche in questo caso a seguire quello che sta facendo Nuna di Meno e il cantiere da questo punto di vista, perché stanno continuando comunque tutte queste iniziative qua a supporto sia della comunità nera internazionale che italiana, che comunque di tutte le minoranze discriminate in Italia e non solo. Perché ricordiamo che poi tutte queste battaglie qua sono sia intersezionali, insomma, sia internazionali, quindi insomma c'è qualcosa che sta bruciando. Notizie virali 14, adesso non mi ricordo più che numero ero. Sì, ma Virginia, qua c'eravamo solo noi. Ne abbiamo fatta una puntata, insomma, in cui io e Virginia abbiamo riassunto cosa è successo nelle precedenti 12 puntate, e poi notizie virali 14 con Nicola Capone e Cristina Alga, in cui abbiamo iniziato a approfondire la tematica qua, che ci ha portato fino adesso, quindi come trasformare la rabbia, insomma, l'istinto che di quella sensazione di cambiamento che vogliamo e che abbiamo dentro in qualcosa di effettivamente concreto, che possa poi attuare quello stesso cambiamento che ci proponiamo di perseguire. Notizie virali 15 con 15 o 14 sono, no, 14 scusate, con Iaconesi e Oriana Persico di Hersh Loves Data, Luca Recano e Rosanna Prevete dell'Orbita Scuola Open Source e Ex Asilo Filangieri, insomma, realtà di movimento di Napoli. Notizie virali 15 proprio con la scuola open source nelle veci di Alessandro Tartaglia e Silvia Zotti, e con Federico Nerotti, che ci tengo molto a salutare, che dovrebbe essere in auto in questo momento, che sta tornando dal lago. Delle informazioni, l'auto può essere ovunque, adesso chi li vuole male, insomma, non sa. Li vuole male? Se qualcuno li vuole male, ma perché dovrebbero voler male a Federico? Ho dato un dato sensibile su Nerotti, che è in macchina, se qualcuno volesse attentarlo non sa comunque dove sia. Sta tornando da Como. Comunque, detto questo, vogliamo dire il GPS cosa segnala. Esatto. Dopo vi diciamo la posizione esatta, se volete saperla mandatemi un WhatsApp, che vi do anche il suo numero di indirizzo, insomma, di casa. E poi notizie virale 16, che è questa puntata che è finita a 3 minuti, come al solito abbiamo sforato. Penso che ci siano state pochissime puntate in cui non abbiamo sforato, non abbiamo avuto errori tecnici, li abbiamo avuti anche oggi, ma questo è stato anche il bello di notizie virali. Io ci tengo a ringraziare la mia compagna per questi 3 mesi e mezzo di trasmissione, poi insomma anche amica, fraterna, sorerna, non so come si dice, Virginia Ricci. Saluto tutta la chat, che è il gruppo poi fondante di Radio Virus, che ci ha permesso sia a livello tecnico di comunque fare meno schifo di quello che avrei fatto da solo, sia ci ha dato input e ha messo su tutta l'infrastruttura che ci ha permesso di fare questa trasmissione. Chiudiamo qua, cioè io chiudo qua la prima stagione salutando tutte e tutte, e come ha detto Virginia, abbiate cura di voi. Adesso passo la parola per gli ultimissimi saluti a Virginia e ci sentiamo poi per la seconda stagione, che ancora non sapremo quando sarà, ma ci sarà. Beh, ringraziamo anche Bea, che è stata una nostra fantastica ospite di oggi, ed è stata anche un'intervistata improvvisata, ma se l'è cavata da Dio, e condivido i ringraziamenti per tutte le persone. Aspetta, tienimi un attimo la cosa per qualche minuto che cerco la canzone intanto. Per tutte le persone che hanno messo in piedi Radio Virus, che è stato una degli esperimenti più sensati di tutto il lockdown, perché se c'è una cosa che bisogna fare nei momenti di crisi è parlare, confrontarsi, e non sempre quando ci si confronta in determinati contesti o soprattutto sui social network si ha modo di avere dei dialoghi veri e propri, ma è sempre un confronto tra insomma non poco fruttuoso, tra un'opinione contro l'altra, mentre dialogare anche tra pareri discordanti. E neanche un supermercato lo è. Per questo sono qui, per capire. E per fatturare con voi in quarantena. Esattamente, e quindi quando si può dialogare bene, rilassati, come abbiamo fatto noi, ma anche tutte le altre persone che hanno lavorato gratis per Radio Virus, è veramente già un passo rivoluzionario. Adesso Fred sta tentando di mettere delle cose che dovrebbero essere delle canzoni, non ci sta riuscendo, invece ci è riuscito, e quindi vi salutiamo con Gemelli Diversi, e ci risentiremo, vi vogliamo bene, ringrazio Fred ti voglio bene, sei speciale, ciao a tutti. Anche Virgi, ciao! Ciao! Notti di sirene in quella periferia, si dice che di noi tutti ho un po' nostalgia, ma le sere è andata a Mary. Ci fanno tanto divertire, ci fanno tanto appassionare. Ci fanno tanto divertire, ci fanno tanto appassionare. Nasconde la gente, gli abusi osceni del padre, ma non vuol parlarne Mary, e cede i suoi dolori in ogni foglio del diario, che ora arra le mani guardando vecchie foto. A lavorare, una preghiera sui polsi, segni di a lavorare, una galera, la madre che a lavorare zitta, ora a lavorare di una nuova sconfitta, e l'ho vista girar per la città senza una meta, dentro lo zaino i ricordi che le ha sporcato la vita, tradita da chi l'ha messa al mondo in un secondo, sul suo corpo i segni di un padre che per Mary adesso è morto. È stanca Mary, non ha più lacrime d'ora, chiede al destino un sorriso chiuso in un sogno la sera, ma dicono che Mary se n'è andata via, l'hanno vista piangere, correva nel buio di una ferrovia, sanno che scappava. Notti di sirene in quella periferia, non bastava correre. Si dice che di noi tutti ha un po' nostalgia, ma lei se n'è andata a Mary, che cammina su sentieri più scuri, sta cercando sorrisi sinceri oltre i muri di questa città. Pensa quando mi parlavi lacrime, dicevi questa vita non la cambio mai. Ci sto provando, sto pregando, ma sembra inutile. E abbracciandomi dicesti tornerò. Hey, guarda, c'è Mary, è tornata in stazione. attenzione, sai, stringe la mano a due persone, il suo bel viso ha cambiato espressione, senza più gocce di dolore, ora la bacia al sole, bacia il suo uomo e la bimba nata dal suo vero amore, con quel suo sorriso che dà senso a tutto il resto, protetto da un mondo sporco che ha scoperto troppo presto, ha un'anima ferita, un'innocenza rubata, sa che è la vita, non una fiaba, ma ora Mary è tornata una fada, cammina lenta ma sembra che sia contenta, attenta, una sfida eterna aspetta ma non la spaventa, era altrove suo padre ha smesso di vivere, Mary fissa la sua lapide, versare lacrime è impossibile. Si chiedono mai Mary, quella in fondo alla via, è riuscita a crescere, tornata con il giorno in quella ferrovia, scalinugiata, parla di a lavorare, nostalgia, stanca ormai di piangere, le sa quanto dura questa vita sia, ma lei l'ha cambiata Mary, camminando su sentieri più scuri. Ci fanno tanto divertire, ci fanno tanto appassionare. Ci fanno tanto appassionare. Ci fanno tanto appassionare. E sul diario segreto scrivevi, quella bestia non è mio papà. Ci fanno tanto divertire, ci fanno tanto appassionare. Di tornare a lavorare, a lavorare, a lavorare, a lavorare. Milano ha bisogno di tornare a lavorare, a lavorare.